Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questo era il brano Retribution dei Behind Enemy Lines, che funge da sigla a questa trasmissione, sigla iniziale, trasmissione che è Zardins Magnetics e che inizia dalle ore 20 alle 21:30 qui in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Ricordo che questa trasmissione anche viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ma andiamo ora invece all'ascolto di uno o due brani di questa band milanese. E loro più volte li abbiamo passati in questo programma, ma anche più volte abbiamo passato i vari dischi che hanno fatto, che sono tanti, e questo è un loro EP 12 pollici che risale al 2012, che si chiama La città dell'ultima paura, Kalashnikov Collective. Bene, un saluto a tutte e tutti, anche da parte mia, ribadisco insomma anch'io i saluti già fatti sia agli ascoltatori di Radio Onde Furlane, di cui siamo ospiti, sia a tutti quelli che ci ascoltano in streaming da tutto il mondo, sia anche a chi ci riascolta in replica o in podcast. Allora, per questa sera erano previsti anche questa sera tre blocchi, diciamo, di della trasmissione. Era stata suddivisa nelle anticipazioni che noi inviamo in tre blocchi. Vi devo comunicare purtroppo che il punto sul monopolio statale della violenza e dell'agonia, amore, l'amore romantico uccide, pensieri, parole, azioni femministe e femministi, verrà svolto e andrà in onda la prossima volta, cioè giovedì 23 febbraio. Invece stasera, che è il 16 febbraio, per questa sera appunto il sommario prevedeva e prevede e prevede una panoramica, chiamiamola così, di aggiornamenti su lotte e iniziative solidali contro l'autorità e la repressione, che le faremo tra poco, e poi una piccola, diciamo, delle considerazioni rispetto a un articolo che era uscito nel penultimo numero della rivista Nunatak. Quindi questo è quanto, io direi che possiamo andare anche con un altro brano. Scott! Bene, rimaniamo anche all'ascolto di questa band così un po' particolare per questa trasmissione. Solitamente mettiamo tutte band del genere o comunque dell'anarcopunk, delle autoproduzioni. Questa band un po' non lo è, una band toscana della zona di Empoli. Insomma, questo è stato così, come dire, il loro inno, che si fecero conoscere, abbastanza commerciali come band. Comunque loro sono il Latte Più ed esordirono con questo disco nel 2002. Eccoci di nuovo in voce. Un attimo, era insomma un po' per fare adesso un quadro, una panoramica, dicevo prima. Allora, io partirei segnalandovi partendo da un articolo che trovate insomma sul web, Osservatorio Repressione, insomma. Un articolo di Marita Prette. Marita Prette era stata anche nostra ospite anni fa, era venuta a presentare un lavoro che ha svolto, che svolse una decina di anni fa sul 41 bis, perché non adesso per fare una, diciamo, sviscerare quell'articolo che ha scritto di recente Marita Prette, era solo per partire da lì, nel senso che venendo qui in macchina stasera mi è capitato di ascoltare I Cocainomani di Radio 24, dove farneticavano del fatto che Messina Denaro va messo in un nel reparto, va traslato, diciamo, va trasportato dal 41 bis dove si trova al reparto dell'ospedale San Paolo di Milano, che è, così dicevano loro, sono delle camere, diciamo, ospedaliere di alta sicurezza, alta sorveglianza. Cioè c'è talmente un marasma in questi ultimi giorni, decine di giorni, che adesso ognuno è cioè si vede cosa vuol dire l'incompetenza, perché si improvvisano anche terminologie, così, situazioni, classificazioni, volevo dire, detentive, che cioè noi adesso noi non siamo niente, però voglio dire, si sa benissimo che quella situazione là dell'ospedale di Milano è unica in tutta Italia ed è prevista solo per detenuti in 41 bis e nessun altro. Se uno è in, anche se si trova in massima sicurezza, viene normalmente, come ogni detenuto, portato in, a meno insomma che ci sono sempre le eccezioni, le situazioni, ogni caso insomma è diverso, no? Viene trattato diversamente dagli apparati delle carcerari, delle apparati carcerari, però insomma è questo risulta. E il discorso è appunto, perché vi rimando alla lettura di quell'articolo di Marita Prette, perché il punto è che oggi la realtà che viviamo, diciamo quotidiana, di questi anni, è una realtà dominata da una mentalità giustizialista, quindi ogni discorso parte da questo sfondo di sdegno immediato quando si parla di atti commessi, diciamo, ognuno è pronto a esprimere la propria insomma indignazione, a così esplicitare che le cose commesse sono riprovevoli e quindi meritano di essere appunto punite in maniera efferata. Invece l'essere, diciamo, la pericolosità sociale, un concetto assolutamente nebuloso, vuol dire che può essere tutto e può essere niente la pericolosità sociale. C'è un ministro del governo, quindi è il potere esecutivo che ha in mano questa può discriminare rispetto a questo concetto. Se è nebuloso, decide chi ne parla ha potere di deciderne, e quindi stabilisce lui che cos'è la pericolosità sociale. Questo è il punto, al di là di tutti i discorsi sulla Costituzione. Cioè è ovvio, è evidente che il regime detentivo di 41 bis è un regime incostituzionale e che è nelle mani del potere esecutivo. Yeah. ci stiamo ascoltando così, sembra insomma, direi proprio senza respiro, anche dal modo di cantare del vocalist di questa band norvegese. Loro sono i Vigruer Oss, non so se detto in maniera corretta, come anche il titolo dell'album, Punk Populistic Propaganda, probabilmente questo punk sta per punk. Comunque, al di là di quello, band norvegese, album di loro esordio, che è questo che stiamo ascoltando, datato 2008, e comunque band anarcho-punk tuttora esistente. E rimaniamo appunto ancora all'ascolto di uno o due brani. Come detto, questi sono i Vigruer Oss. Altra cosa che volevo così precisare, ovviamente i brani sono brevi, ma in questo album sono ben 44 su un totale di due lati del disco, quindi come esordio, e anche tutto il libretto interno allegato, molte le cose che volevano dire ed esprimere per questa band norvegese. Allora, 8 e 34 minuti di giovedì 16 febbraio 2023. Gli eventi delle ultime settimane hanno evidenziato la difficoltà in cui si trova l'esecutivo nell'affrontare quello che nelle aspettative istituzionali doveva restare confinato al cosiddetto caso Cospito e circoscritta all'area anarchica, e che invece sta deflagrando nella messa in discussione del 41 bis sollevata da una compagine sociale e politica ben più ampia ed eterogenea. Una verità che emerge nitida da queste prese di posizione è la natura del tutto arbitraria e eminentemente politica che disciplina il 41 bis. Nel corso di questi mesi a Milano si è costituita un'assemblea cittadina contro 41 bis, ergastolo in solidarietà a Alfredo, che ha promosso una serie di iniziative, di cui l'ultima è stata la manifestazione determinata dell'11 febbraio. Il corteo, partito da Piazza 24 Maggio e diretto Piazzale Lodi, è stato determinato e partecipato da centinaia di persone che hanno attraversato alcune vie del trafficato centro cittadino, rompendone la routine con cori e interventi contro il carcere 41 bis. Circa metà del percorso, la polizia ha deciso che il corteo non sarebbe dovuto proseguire, schierando reparti della celere. Si è comunque provato ad avanzare e ci sono state le prime cariche e poi il lancio di alcuni lacrimogeni. Da questo punto si è cercato di rimanere insieme e rallentare l'avanzata della polizia per arrivare a un posto sicuro per sciogliersi. Durante le cariche sono state fermate 11 persone, alcune delle quali erano sul furgone con l'impianto utilizzato durante il corteo. Sono state tutte rilasciate nella nottata di sabato con l'accusa di resistenza in concorso e per alcune di loro imbrattamento e danneggiamento. Sulla giornata si possono spendere giusto due parole ancora. Era chiaro che la rabbia sarebbe aumentata, non poteva essere altrimenti, di fronte all'aggravarsi delle condizioni di salute di un compagno in carcere. Ci sembra importante riuscire a stare insieme nelle piazze e darci strumenti per agire in sicurezza e difendere l'agibilità dei cortei. È necessario perché saremo ancora in strada presto a sostenere la lotta di Alfredo. La responsabilità politica non riguarda soltanto la vita del compagno, ma le condizioni dei 750 detenuti in 41 bis, delle migliaia sottoposti a ergastolo, dei 16 prigionieri politici da più di 40 anni per la stagione di lotte degli anni 70-80, degli 84 suicidi in cella solo nel 2022, dei 13 morti del massacro del carcere di Modena del marzo 2020, e non solo Modena, della mattanza e dei pestaggi avvenuti in tutte le carceri italiane sempre nel 2020, che costituiscono non l'eccezione, ma la regola della gestione ordinaria delle carceri. Quindi, si conclude questo comunicato dell'Assemblea Cittadina Milanese. Invitiamo tutti a partecipare, tutti a partecipare alle iniziative che si terranno, appunto, si sono tenute lunedì, martedì, giovedì, cioè anche oggi, stamattina, davanti all'ospedale San Paolo, contro ogni ipotesi di alimentazione forzata e contro il trattamento sanitario obbligatorio, ma anche per denunciare la responsabilità e le miserie ampiamente emerse in periodo di emergenza pandemica della cosiddetta eccellenza sanitaria lombarda. Invece domani, venerdì 17, dalle ore 16, presidio davanti al Comune di Milano per diffidare il sindaco di Milano a firmare qualsivoglia disposizione contraria, a firmare qualsiasi disposizione contraria alla volontà di Alfredo, che ha, come sapete, come tutti sanno, chi ci ascolta, ha espresso la volontà di non essere, diciamo, trattato con l'alimentazione forzata. Questo, appunto, che vi ho letto era il comunicato uscito l'altro ieri. Invece, per andare a oggi a Trieste, in Largo Barriera, si è tenuta un'iniziativa dei compagni triestini con mostre, microfono aperto, quindi interventi, testi contro il 41 bis e l'orgasmo ostativo, a partire dalle 17 di oggi era, e insomma, sì, oltre alle cortine fumogene della propaganda di Stato, i suoi depistaggi, la sua strategia della tensione, della dissuasione, oltre a ogni sprezzo del ridicolo, ministeri, corti, scribacchini, e rimbalzandosi le responsabilità, fanno la guerra a un anarchico, e con lui a tutti e tutte noi. Questa ferocia repressiva non deve passare, recitava la chiamata. Passando a Udine, ci sarà prevista, diciamo, già questo dopodomani, sabato, ci sarà un ritrovo, diciamo, una presenza nel quartiere, diciamo, vicino ai Rizzi, al Parco di Cemento, all'aperto, con anche qui microfono aperto, letture, aggiornamenti, distro, mostra, una mostra, e insomma beveraggi, e un piccolo rinfresco. Poi ci sarà proiezione del documentario che è stato realizzato da Video Citronics, è un documentario di 28 minuti, Fino all'ultimo respiro, il caso di Alfredo Cospito e Anna Beniamino. Rompere l'isolamento, no 41 bis, no tortura. Ricordo quindi sabato 18 febbraio, a partire dalle ore 17, non l'avevo detto, dalle 17 di sabato, Udine, Parco di Cemento, via Valdarzino, ai Rizzi. La lotta va avanti. Tra l'altro oggi, cioè ieri sera, ma insomma oggi, era stato fatto un... si è dovuto fare un comunicato, perché già da qualche giorno con questa storia degli yogurt è stata fatta una campagna mass mediatica di calunnia e denigrazione, e quindi svariate testate hanno dato parecchio risalto al fatto che il compagno, appunto, avesse ricominciato a nutrirsi. Invece il corpo di Alfredo, ormai dopo troppi giorni di sciopero della fame, ha rigettato sia questi due yogurt che gli integratori. Ciò che sta al momento assumendo è unicamente zucchero, sale e potassio. Si tratta di una notizia drammatica, perché appunto l'avvocato Flavio Rossi Albertini ha più volte ribadito che non è detto che Alfredo arrivi vivo al 24 febbraio, scusatemi, e che sarà il giorno, appunto, di questa cassazione, di questa udienza in cassazione, eccetera eccetera. Insomma, qui diciamo che si ferma il discorso degli aggiornamenti per tutto, insomma, quello che concerne questo tema. C'è insomma l'imbarazzo della scelta, chi vuole informarsi. Anzi, no, mi smentisco, dopo il prossimo brano, ultima incursione in questo discorso qua del 41 bis. You liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, you liar, Questi che stiamo ascoltando sono una band inglese, loro sono i Broken Bones, praticamente era una fusione tra i Discharge e comunque ex membri dei Discharge, sarebbe una storia molto lunga, comunque questo album risale al 1984, loro sono i Broken Bones. Allora, 20 e 50 minuti, notizia di oggi, sciopero della fame dei prigionieri anarchici e combattenti in solidarietà con Alfredo Cospito, Grecia, 16 febbraio 2023. Il regime carcerario del 41 bis è il completamento della struttura carceraria in una condanna a morte mascherata. L'esecuzione, in questo caso, non si esaurisce in un momento come con un colpo di pistola, la stretta del cappio, l'applicazione di corrente elettrica o l'iniezione di veleno nel corpo, ma dura tutta la vita in una condizione di coma sociale, in un non mondo. Così si diffonde nel tempo, fuori da questo mondo, la condanna a morte si è sottratta alla storia, così come lo Stato persegue l'oblio per tutti i prigionieri della guerra sociale che sono sepolti vivi nelle condizioni del 41 bis. Il regime del 41 bis ha già ucciso una combattente, Diana Blefari Melazzi. Il regime del 41 bis e la legge sulla strage sono l'eredità della controrivoluzione europea dai tempi di Piazza Fontana. Questa guerra civile non si è mai conclusa. Gli stati, e in particolare quello italiano, portano avanti la controrivoluzione affinché la fiamma non divampi mai più. Tutti i sistemi seguono passo dopo passo gli esempi introdotti per la prima volta come misure speciali di guerra. Ad esempio le celle bianche della Germania occidentale, le carceri di tipo F in Turchia e le sezioni FIES in Spagna, fino alle carceri di tipo C in Grecia o al nuovo sistema carcerario di alta sicurezza AA. Delle leggi di ispirazione hitleriana, tuttora in vigore, riguardanti la proroga indefinita della carcerazione per motivi preventivi, grazie alle quali il compagno Thomas Meyer Falk si trova a essere recluso per altri 10 anni, 25 anni in totale, nel carcere di Friburgo in Germania. Ai diversi metodi di estorsione delle dichiarazioni di ravvedimento e dall'asinara ai Merali. L'anarchico Alfredo Cospito sta lottando affinché la fiamma torni a divampare. Riaffermiamo la lotta del compagno. È nostro compito difendere con i fatti la battaglia di Alfredo Cospito, che Alfredo Cospito sta combattendo. Una lotta per e contro il tempo stesso. Questo specifico sciopero della fame non riguarda solo i compagni nel territorio italiano, ma è internazionalista. Quindi che la stella della solidarietà internazionalista brilli al fianco di Alfredo Cospito e di tutti coloro che stanno combattendo dall'interno di un regime carcerario speciale, dalla Grecia a ogni punto del pianeta, per tutti coloro che lottano per la libertà. Perché la sconfitta non è la prigionia, ma la perdita della fiducia nella possibilità di vincere. Per questo stiamo intraprendendo collettivamente uno sciopero della fame, secondo le facoltà di ciascuno, per stare al fianco del rivoluzionario anarchico Alfredo Cospito, ma anche contro il regime di morte del 41 bis. Allo stesso tempo, nelle carceri greche continua la lotta contro il nuovo codice penitenziario. Di seguito ci sono i nomi dei compagni: Giannis Michailidis, Dimitris Tsatsivasileidis, Thanos Tsatsiangelou, Iasonas Rhodopoulos, Kostas Dimalexis, Labros Vujoklakis, Stathis Nikolozus, Stergios Kalaitzidis e Fotis Daskalas. Quindi questi 12-13 compagni si stanno, diciamo, secondo le proprie possibilità, stanno svolgendo a partire da oggi uno sciopero della fame in solidarietà, diciamo in solidarietà con Alfredo, ma non solo, insomma, per spingere, diciamo, chi può a continuare la battaglia che Alfredo sta combattendo. Quelli che stiamo ascoltando sono i Disrupt, band del Massachusetts, Stati Uniti, che si è formata nel 1987 e fece uscire un bel po' di dischi, comunque molto potentissimi, e tutti questi brani molto brevi e veloci, tant'è che per dirne alcune, che quello che stiamo ascoltando è un'uscita discografica postuma allo scioglimento della band, che è avvenuta alla fine del 1993, dove sono più o meno raccolte un'ottantina di brani, per dire di quanto fecero. E la cosa assurda, tutti i pezzi così potentissimi, e la band ha deciso di sciogliersi per divergenze musicali interne. Perciò non so cosa devono fare, cosa creare, dato che erano, insomma, diciamo quasi mono musicali. Comunque vabbè, dai, Disrupt è Stati Uniti. We'll be right back. Case che rimangano vuote o affittate a famiglie. famiglie con richiesti requisiti. Chi non ha famiglia dorme sotto i ponti, anneghi dolcemente quando il fiume è in piena. I supermercati traboccanti, merci vomitate successivamente dentro i cassonetti, con spasse di veleno che qualcuno non le prelevi impunemente dagli stessi. Sempre lavorare producendo merda, malarmi, stare male col tumore e poi morire. Solo lavorare, inquinare il mare, riprodursi come cozze attaccate al polo industriale. Disboscare monti per piantare paleoliche, coprire le pianure di pannelli solari, costruire auto elettriche che non inquinano, centrali nucleari per farle funzionare, diventare un designer di carceri moderni, uno stilista di camicie di forza che vestirà i boia del futuro per l'aperitivo lounge a casa del dittatore. Allora, finalmente l'annunciato in chiacchiere, diciamo, sull'articolo di Nunatak, partendo da questo brano dei Nociappi Bourgeoise, Lavoro Forever, così, gruppo genovese, un duo genovese, perché tempo fa si parlava, anzi mi scriveva un compagno imprigionato, mi scriveva sì, un compagno marxista-leninista, e Max Stirner è una questione superata, perché ai tempi in cui viveva Stirner la Germania era una realtà feudale, negli stessi anni quello che succedeva diciamo nella metropoli di Parigi o di Londra, o insomma dove lo sviluppo industriale era più avanzato, era per Stirner inimmaginabile. Questo insomma era un qualcosa che condizionava tutto il suo discorso. Se lui avesse saputo tutto quello che succedeva, si sarebbe ben ricreduto su tutte le questioni che lo hanno, diciamo, su cui ha elaborato le sue prospettive. E invece io poi non gli ho risposto, questo compagno. Comunque poi nel frattempo sono passati mesi, anche confrontandomi in maniera sporadica, però diciamo significativa, con un altro compagno che magari è in ascolto, che viene ogni tanto a trovarci, un compagno milanese, si diceva invece che bisogna ripartire sempre da capo con l'unico, perché l'unico parla, diciamo, senza mediazioni, no? Senza tante cerimonie, parla direttamente, parte dalla realtà viva che da cui noi, insomma, siamo immersi. E l'articolo che, insomma, mi ha stimolato rispetto a questo discorso si intitola L'urgenza dell'accesso alla terra, una proposta per far ripartire le lotte contadine, firmato da un collettivo che si chiama Unite e Uniti nel Disagio, o meglio Unitu, penso che si legga il 3, sono veramente ignorante su queste vicende. Comunque è un diciamo un gruppo ristretto che partecipa alla realtà collettiva che si chiama Mondeggi Bene Comune. Mondeggi è una tenuta che si trova nella zona di Firenze, ma a me lo spunto è venuto dal discorso che fanno questi compagni di ripartire dalla condizione lavorativa dell'agroindustria, cioè di ogni volta che si elabora, che si diciamo cerca di fare una prospettiva insomma si riporta al centro del dibattito le pratiche ecologiste, no? Manca sempre questo, potrebbe essere un convitato di pietra, ma insomma una parte importante, che è quella del lavoro sulla terra, concretamente sul terreno, e partire dalle condizioni di lavoro nell'agroindustria vuol dire partire da condizioni di sfruttamento schiavista, e nelle migliori situazioni sono situazioni di scarsa tutela, di invisibilizzazione e di, quindi, di praticamente assenza di sindacalizzazione, o dico io impossibilità anche di sindacalizzazione, visti i rapporti di forza, viste le tipologie di contratti, insomma, viste ma anche le tipologie di contrattualizzazione, insomma. Dire poco, appunto, è precarie. Cosa significa questo? Dicono questi compagni. Beh, insomma, io vi invito ad andarvi a leggere l'articolo, ripeto, si trova sulla rivista di storie, culture e lotte della montagna, Non Attack, non l'ultima, che è il 66, che è dell'autunno 2022, ma questa, che era penultima, era uscita a settembre, in par ottobre, estate 2022, Non Attack. Quindi non andiamo a fare il riassunto dell'articolo, però l'articolo, appunto, dice nel articolare, appunto, un progetto di intervento ecologico, manca un orizzonte complessivo. Nel loro caso si parla di questa, appunto, tenuta che era di proprietà di qualche istituzione, insomma di qualche ente, volevo dire pubblico, a partire dalle manovre, diciamo, di svendita dei beni, che insomma si sono accentuate a partire dal 2012, se ricordate il governo di Mario Monti, il decreto Salva Italia, si è coalizzata questa resistenza alla svendita di queste tenute e hanno realizzato, insomma, hanno messo in piedi una dimensione assembleare, una, insomma, realtà autogestita dove appunto è stato collettivizzato, diciamo, sia il lavoro sia la produzione dell'olio, nella fattispecie dell'olio di oliva, la raccolta appunto e poi la produzione dell'olio. E quindi dicono loro cosa manca quando si cerca di fare il passaggio da sogno, cioè dalla dimensione del desiderio, dalla dimensione dell'utopia, sì, che sarebbe il sogno di un cambiamento sistemico e complessivo, no? Che quindi è un sogno rivoluzionario. Cosa manca appunto nel passaggio alla materializzazione di questo sogno? E loro dicono se manca un progetto rivoluzionario complessivo. Se vi ricordate, su questo discorso del progetto rivoluzionario ne avevamo già cercato di fare delle considerazioni, se non sbaglio, già due o tre anni fa, a partire degli articoli sui giorni e le notti, molto così stimolanti. E questi compagni, queste compagne appunto, articolano tre punti, diciamo così, abbastanza elementari, ovvero un'idea che appunto promuova e agisca una contadinanza radicale, dicono loro, per il diritto alla campagna e la condivisione di terre comuni attraverso pratiche come occupazione di terre, autogoverno dei territori, scusate, poderalità, forme di economia circolare, mercati contadini, orti sociali, eccetera, organizzandosi in mutuo aiuto territoriale, gruppi di affinità, lavoro autogestito. Secondo punto è una mobilitazione di base delle operaie, degli operai dell'industria agroalimentare, quello che dicevamo prima, appunto anche partendo da semplici questioni rivendicative, cioè di miglioramento delle condizioni lavorative, e favorire il contropotere operaio all'interno del processo produttivo. Ovviamente la realtà d'oggi dell'agroindustria non è la realtà di 20-25 anni fa, è una realtà appunto dove sono stati spostati, traslati dei dispositivi che derivano dalla realtà industriale, sono stati spostati nell'ambiente, diciamo, ambiente agricolo, e quindi è stato compartimentato il lavoro, è stata aumentata a dismisura la produzione, perché appunto i prodotti non sono pensati per l'autoconsumo e neanche per il mercato interno, ma vengono concepiti, insomma, dimensionati su un orizzonte, diciamo, globale, nonostante che vada tutto a rotoli, no? L'economia. Poi l'ultimo punto, che non è il meno importante, è l'azione diretta, mira a compiere azioni dirette in risposta a avvertenze specifiche, sabotando e attirando l'attenzione sulla causa, organizzandosi in piccoli nuclei attraverso pratiche come presidi, picchetti, blocchi, zone autonome temporanee, sabotaggi, situazionismo, eccetera, eccetera. Questo era uno stimolo appunto sono veramente quattro paginette, no? Cioè, su un attacco, tra l'altro l'articolo seguente è pure molto molto interessante ed è curato da un compagno, pure questo lo conosciamo, che è Manuel. Next Generation EU Recovery Fund PNRR, la messa a profitto dei territori montani. Ribadiamo, sono articoli che trovate su Un Attacco, una rivista molto, molto così stimolante, importante, che tra l'altro distribuiamo anche noi come, sì, qui a Udine, assemblea permanente anticarceraria, abbiamo un'unità. Tornando, diciamo, concludendo il discorso, era appunto cosa vuol dire, cosa vorrebbe dire concretamente una ripresa della lotta, diciamo, per un lavoro, appunto, per la dignità nel lavoro contadino. Significherebbe affrontare quelle che sono tematiche dell'alienazione e soprattutto della gerarchia. La proposta di Max Stirner, che non è, appunto, ribadisco, da sottovalutare, ma è da riprendere, diciamo, come una, non dico un mantra, ma insomma è da reimparare questa roba qua, tenerla, noi anarchici e noi anarchiche, come un, posso dire, un canovaccio, insomma, che torna utile, non ha limiti, diciamo, e le lacune che hanno altri tipi di strutture concettuali, è questa proposta dell'unione degli unici, perché appunto distruggere appunto la gerarchia, che c'è anche nei gruppi di lavoro, voglio dire, tra colleghi. I colleghi di lavoro non sono altro, se ci pensate, che sono una disunione, sono gente che non ha niente a che fare tra uno con gli altri, praticamente, ed è coordinata in maniera gerarchica di solito, no? E quindi le decisioni non sono condivise, vengono subite, eccetera eccetera, con tutta una serie di conseguenze, effetti. Quindi negare stato, invece, negare società, vuol dire concretamente ricostruire i rapporti. Quello che propone l'unico è una, diciamo, completo rivoluzionamento della relazionalità. Però non è che si pensa tante volte che, perché si parla dell'unico, quindi dell'individualismo, quindi gli anarchici fanno quello che vogliono, pensano, sono degli egoisti, e lo sono degli egoisti, ma lo dicono di esserlo, quindi si prendono anche il, diciamo, il peso etico di essere degli egoisti, nel senso che vanno alla ricerca di una relazionalità responsabile. Quindi cercano di distruggere le fissazioni di ruoli, cercano di distruggere l'estraneazione, cercano di distruggere questi rapporti di lavoro alienanti, queste decisioni sempre già prese, invece di affrontare, appunto, con la federazione dover rispondere ogni volta di ciò che è dato, appunto, non è come una concessione del padrone, ma è qualcosa di cui si risponde continuamente, di cui ci si prende seriamente, diciamo, si prende un impegno serio su quella cosa lì, e non c'è, appunto, non c'è rinuncia, non c'è assolutezza, non c'è quindi esclusione di nulla. È così, e di solito questa cosa qua, oltre che sulla carta, anche fuori dalla carta, voglio dire, funziona, garantito, insomma, meglio e sempre, e con meno sofferenze, dolori umani, diciamo, meno gente che si lamenta, meno gente che rosica, che il modello invece gerarchico, capitalista, borghese, eccetera, eccetera, eccetera, o socialista reale, eccetera, che sono sempre appunto raggruppamenti gerarchici basati su un essere già riuniti, dice Stirner, no? Quindi che hanno una durata restabilita, invece l'unione, lo sappiamo, ha una durata che è stabilita da chi? Dai singoli che vi partecipano. Vi invito a prendere, insomma, ritornare in qualche maniera come potete anche sulla base dei riferimenti che abbiamo dato anche nell'ultimo anno di trasmissioni su questo discorso qua di Stirner, perché appunto è una spinta continua a mettersi in gioco. Bene, sulle note di questa band femminile della California, Stati Uniti, band che è esistita negli anni 90, loro erano le Red Hounds, e siamo quindi anche giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Proprio siamo agli sgoccioli. Vi ricordo i nostri contatti, se volete scriverci fatelo nella posta elettronica, che è liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendoci e intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre potete ascoltare nuovamente questa trasmissione, ma anche tutte le precedenti dei giovedì passati, andando alla ricerca di Zardins Magnetics radio.noblogs.org. ed inoltre domani saremo in replica su Radiazione Web Radio dalle 17. Bene, questo è tutto, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con questo ultimo brano delle Red Hounds.